Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Gianrico Carofiglio. L'ultimo libro scritto da Carofiglio si intitola Il silenzio dell'onda ed è pubblicato da Rizzoli. Il protagonista è un carabiniere che è momentaneamente in congedo per ragioni di salute e che in passato ha fatto l'infiltrato, e c'è tutto un modo particolare in cui conosciamo la sua storia. Allora, Carofiglio, partiamo da questo protagonista, Roberto. Chi è questo Roberto? Roberto Marias è un carabiniere con una storia piuttosto singolare. Noi lo incontriamo quando già da tempo non fa il carabiniere, perché è in congedo per ragioni di salute mentale, come dice lui stesso a se stesso, e va da uno psicoterapeuta e psichiatra, il che significa che prende le medicine oltre a ricevere una terapia, e quello che noi scopriamo di lui lo scopriamo dalle conversazioni che lui fa con questo psicoterapeuta, e scopriamo poco a poco che cos'era la sua vita prima e che cosa è successo nella sua vita che l'ha devastata completamente. Come mai ti sei inventato questo escamotage dello scoprire appunto la storia attraverso le conversazioni con lo psicoterapeuta? Io sono affascinato dal racconto delle storie in tutte le forme, e in questo romanzo, anche se ora posso dirlo dopo averlo scritto, non ero consapevole all'inizio che l'esigenza fosse questa, credo che il mio desiderio fosse di far raccontare le loro vite ai personaggi nel discorso diretto, diciamo. E beh, allora la situazione di un signore che va dallo psicoterapeuta e che gli racconta del suo passato e del suo presente sembrava proprio uno schema ideale per un pezzo importante di queste storie. Poi ci sono le conversazioni che Roberto ha con Emma, che è la protagonista femminile del romanzo, in cui Emma racconta a Roberto il suo passato. Gran parte del romanzo è un romanzo raccontato dai protagonisti, e questo è vero anche poi per la storia dell'altro protagonista, che è un ragazzino di 11 anni. E adesso arriviamo anche all'altro protagonista e ad Emma, che poi è sempre una paziente dello stesso psicoterapeuta di Roberto. Tu hai avuto esperienze dirette di psicoterapia oppure ti sei un po' basato sui racconti per trovare un po' quel linguaggio che c'è fra paziente e medico? Sto ricevendo tante mail in cui mi chiedono che tipo di terapia io faccia, ma in realtà io non ho fatto nessuna terapia. Vabbè, sei stato credibile allora. No, ma io, infatti lo considero un grandissimo complimento, perché chi mi scrive, insomma, sono persone che invece stanno facendo un percorso terapeutico e che si riconoscono nel linguaggio, nelle situazioni, anche in molti dettagli, tant'è che quando rispondo loro che no, non ho fatto terapia, non la sto facendo, alcuni dicono che non gli sto dicendo la verità, che è un, come posso dire, rinforzo del complimento. Come dicevo, avevo una gran voglia di raccontare una storia con quell'espediente narrativo, e avevo da molto tempo voglia di raccontare la situazione della terapia, che è una situazione che, pur non avendola mai praticata, mi affascina moltissimo. Da molti anni leggo un sacco di cose su questi temi. E naturalmente, dovendo scrivere questo romanzo, mi sono documentato specificamente, ho parlato con psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, psicanalisti e soprattutto, devo dire, queste sono state le conversazioni più utili, con pazienti. Quindi hai incontrato proprio pazienti che ti hanno raccontato la loro esperienza? Sì, ho incontrato numerosi pazienti, alcuni amici che sapevo aver fatto un percorso di questo tipo, ma anche altre persone conosciute nelle maniere più varie. Naturalmente chiedevo rispettosamente il permesso di fare delle domande, ma spesso la gente ha voglia di raccontare questo tipo di esperienza, e quindi la scrittura si è nutrita davvero di tanti racconti che sono importanti per le questioni strategiche, ma sono anche e soprattutto importanti per i dettagli. Tante piccole cose che devi aver o vissuto o che ti devono essere state raccontate da qualcuno che le ha vissute intensamente. È sui dettagli che si misura la credibilità di certe storie, e su quello era veramente importantissimo essere accurati. Già prima si accennava al personaggio di Emma, che è un'altra paziente dello stesso psichiatra, e c'è questo incontro fra Roberto ed Emma. Ora non scendiamo troppo nei particolari, però che impatto ha nella vita di Roberto questo incontro? Beh, Roberto ed Emma, diversissimi fra loro, perché appunto lui faceva l'agente sotto copertura e lei faceva l'attrice soprattutto di teatro, hanno però una cosa in comune che si scopre quasi subito, che loro scoprono quasi subito, e cioè nella loro vita passata interpretavano qualcun altro. L'una perché faceva l'attrice e l'altro perché faceva l'infiltrato. E la percezione di questa identità, pur nella enorme differenza delle loro esperienze, è probabilmente il punto di partenza del rapporto che nasce fra loro e della trasformazione delle loro vite, di cui all'inizio non sono affatto consapevoli, ma in realtà l'incontro fra loro è uno dei passaggi, come posso dire, strategici del romanzo ed è il principio della trasformazione e direi in qualche modo della redenzione soprattutto di Roberto. Se qualcuno mi chiede di definire questo romanzo in poche parole, io dico che è un romanzo di caduta e riscatto, è un romanzo di caduta e di redenzione. È un romanzo di caduta e di redenzione, però abbiamo visto c'è sempre un carabiniere, insomma sempre storie in qualche modo che hanno a che fare con indagini o col crimine. Qui fanno veramente da sfondo, sono, non dico il pretesto, ma lo strumento per raccontare altro. L'aver vissuto esperienze estreme è la premessa perché Roberto, come dire, viva un processo di trasformazione dolorosissimo, ma importantissimo, che è qualcosa di comune a molti di noi e che nella sua sostanza non ha nulla a che fare con il crimine o con le indagini o con quel tipo di lavoro. Ha a che fare con il fatto terribile che spesso viene sperimentato di guardarsi allo specchio fisico metaforico e non riconoscersi più, non sapere chi è lì e andare alla ricerca angosciosa di qualcuno che possa sostituirci in quello specchio che ci rimanda qualcuno che non conosciamo. Altra voce narrante del romanzo è Giacomo, questo ragazzino che ha tutto un mondo suo interiore particolare. Ce lo vuoi un po' descrivere? È attorno alla storia di Giacomo che nasce questo romanzo. L'idea originaria era proprio quella di raccontare di questo bambino, ragazzino, che nella fase immediatamente precedente all'inizio dell'adolescenza, che vive in un equilibrio instabile fra i suoi sogni e che gli piacciono molto e che racconta in questa specie di diario, e la sua realtà del giorno che gli piace molto di meno per tante ragioni che non svegliamo per non togliere il gusto ai lettori, spero. Attorno a quell'idea poi si sono aggregate progressivamente le altre storie, cioè quelle di cui abbiamo parlato finora, di Roberto, di Emma, dello psichiatra, dell'ambientazione che è un'ambientazione diversa dai precedenti romanzi, cioè di una Roma solitaria e sterminata, e la scommessa, una parola che non amo molto, ma probabilmente in questo caso ci sta, di questo romanzo, era di mettere assieme una storia quasi fantastica, nel senso del fantasy quasi, quella dei sogni del ragazzino raccontata in forma in bilico fra diario e romanzo, è una storia terribilmente realistica, quella di Roberto, di Emma e del mondo attorno a loro. La scommessa, dicevo, è come dire, la combinazione di queste storie, il farle a un certo punto urtare l'una con l'altra, incrociarsi per dire, spero, delle cose. Non diciamo come e quando, insomma, le storie si incrociano, però possiamo dire che c'è un legame fra questi due personaggi maschili, fra Roberto e Giacomo. Tutte e due hanno perso il padre e tutte e due sentono fortemente questa mancanza. È sicuramente un romanzo sulle mancanze. È fra le varie mancanze una significativa, anzi direi fondamentale, la mancanza della figura paterna, ma direi, anche se meno visibile, della mancanza della figura del figlio. Padri mancati o padri che hanno realmente dei figli ma nei quali non si riconoscono e viceversa, figli che hanno perduto i loro padri fisicamente o anche soltanto come figure di riferimento. E il romanzo è molto il racconto della ricerca, diciamo, disperata dei padri e dei figli, gli uni con l'altri. Questa ricerca di cose che mancano o che ci accorgiamo di aver avuto e di aver semplicemente sprecato, questo è uno dei temi fondamentali del romanzo. Questo è un romanzo che non ha l'avvocato Guerrieri come per protagonista, insomma Gianrico Carofiglio alterna romanzi con guerrieri e romanzi non guerrieri, diciamo così. Quando ritornerà il famoso avvocato? Non so dire quando, ma posso dire che certamente tornerà. Rispetto ai romanzi con guerrieri, io, come dire, rivendico il diritto a non fare degli episodi, che mi parrebbe un po' triste, mi parrebbe un po' non rispettare il personaggio. Scrivo un romanzo con guerrieri quando ho un vero romanzo da scrivere, cioè quando ho una storia che vale la pena di raccontare, non semplicemente un plot, un intreccio in cui calare lui come una marionetta. Se c'è, o meglio, quando ci sarà, già ho qualche idea, una buona storia da raccontare, che significa una storia anche di trasformazione del personaggio, allora arriverà il romanzo. Grazie a Gianrico Carofiglio, autore di Il silenzio dell'onda, pubblicato da Rizzoli. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.